Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria in tempi di coronavirus. Partiremo chiaramente con l'analisi dell'Europa che certifica nelle previsioni economiche di primavera la profonda recessione in cui in soli due mesi sostanzialmente ci ha trascinato il coronavirus. La disoccupazione salirà al 9%, nell'area euro al 9,6%, una recessione storica, meno 7,4% in generale in Europa, meno 7,7% nell'area euro, e ancora in Grecia il maggior crollo del PIL, poi l'Italia meno 9,5%, la Grecia meno 9,7%, l'Italia meno 9,5%, la Spagna meno 9,5%. E 4%, invito però a prendere con cautela queste previsioni con i decimali, diciamo 9%, tra 9,5%. Poi dopo Spagna, Francia meno 8%, Germania meno 6,5%, quindi meglio di Francia, Spagna e Italia. Il paese che subirà il danno minore è la Polonia, con un calo solo del 4%. Il deficit dell'Italia sarà l'11%, quest'anno il debito salirà al 159% del PIL. L'Italia è tra i paesi più colpiti e dove la ripresa sarà più lenta. Ascolteremo anche le parole di Gentiloni e un insieme anche di altre valutazioni, perché il tutto si incornicia, diciamo così, nella decisione della Corte Costituzionale tedesca, di cui ieri molto abbiamo parlato. Il giudizio del professor Masciandaro era molto netto, era preoccupato, non tanto per la decisione immediata, perché è relativa all'acquisto di titoli di Stato a partire dal 2015, che secondo la Corte tedesca contrastano con le competenze, quindi ha detto competenze della stessa BCE, e quindi chiede risposte in tre mesi. Però è ovvio che poi c'è lo scontro tra la Corte europea e le Corti nazionali. La BCE oggi ha risposto: implementeremo a breve i passi richiesti dalla Corte di giustizia tedesca. E poi c'è il mitico Weidmann, il presidente della Bundesbank, un falco da sempre, il più grosso oppositore di Mario Draghi, che dice oggi in un'anticipazione di Zeit: in una crisi di queste dimensioni le banche centrali devono portare il loro contributo alla stabilizzazione dell'economia, ma al tempo stesso è importante uscire dal modus crisi quando l'economia comincia a riprendersi. Per carità, le previsioni di oggi non mi sembrano che si possa uscire dal modus crisi prima del 2020, e quindi vedremo se poi nel 2021 o negli ultimi mesi del 2020 vi sarà un rimbalzo da questo punto di vista. Di questo parleremo in apertura. E poi dopo i mercati parleremo del mondo dell'agricoltura. C'è uno scontro nel governo tra l'ipotesi del ministro Bellanova, che chiede la regolarizzazione di circa 600.000 irregolari che lavorano nei campi. Sapete che il tema è che mancano le persone per la raccolta, c'è stata una fuga anche di migranti irregolari nei loro luoghi di origine e quant'altro. PD, Italia Viva e Leo spingono per inserire la misura nel decreto di maggio, quello che è ancora all'esame del governo. Il ministro dell'interno Luciano Lamorgese è d'accordo, manca però l'ok dei 5 Stelle, che sono contrari più che mancare l'ok, nel senso che oggi Crimi, il rappresentante dei 5 Stelle, ospite questa mattina, il capo politico, scusatemi, dei 5 Stelle, ospite questa mattina con Simone Spezia e Maria Latella, ha detto no a una sanatoria in stile Maroni, però c'è molta tensione anche perché la Bellanova ha detto valuto la mia permanenza nel governo, se rifletto sulle dimissioni, se non vi sarà la regolarizzazione, e anche di questo parleremo, perché il tema è chiaramente molto molto caldo. Cercheremo di capire che cosa poi quale punto di caduta si possa avere. Infine c'è stato l'incontro del governo oggi con le parti sociali, con i rappresentanti dei datori di lavoro, quindi Confindustria, Confapi, Confimi, Confopressioni, ANCE, assente il Premier Conte, guidata dal Ministro della riunione dal Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, dopo che ieri verrà stato l'incontro con i sindacati, è arrivata una posizione negativa da parte di Confindustria e ANCE alla riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. Cerchiamo di capire perché, proprio con il rappresentante nel mondo dell'edilizia, dove qualche elemento nel DL Maggio positivo per il mondo delle costruzioni dovrebbe arrivare. Vi do la borsa e poi rispondo a alcuni messaggi sulla burocrazia di questo paese e sui dati che abbiamo alla mano sulle richieste di cassa integrazione e sulle richieste anche dei 600 euro nonché delle moratorie. Attenzione, io lo dico senza polemizzare con il governo, questo paese era già soffocato dalla burocrazia prima del coronavirus, e abbiamo raccontato di tutto, le pratiche che servivano, le 16 passaggi per avviare un'opera, e ora io spero che il governo e anche il ministro Catalfo in uno specifico, ma non solo, riescano a utilizzare degli strumenti ancora più efficaci. Mi riferisco sia al rapporto col mondo bancario e sia in generale alla burocratizzazione di questo paese per snellire. Alcuni mi scrivono: non ho ancora ricevuto i 600 euro. Allora, io non posso valutare da qua se la sua offerta sia stata respinta, se non ci fossero i parametri, perché bisognava avere un reddito fino ai 35.000 euro, 50.000 euro massimo, ma dimostrando un calo del 30% nei ricavi nei primi mesi. Io, però, quello che è inaccettabile è che se il no è no, ti deve arrivare subito o nei tempi accettabili. Se è un sì, ti devono arrivare questi soldi. Lo dico perché non voglio aprire un fronte che spero di non aprire mai, perché ho ben presente cosa capitò quando con Oscar Giannino lanciamo la campagna nel 2012-2011, Disperati Mai, chiedendo appunto agli imprenditori di raccontarci la loro storia, ma di non arrivare mai alla disperazione finale. Eravamo reduci appunto dal 2008 e dal 2011, dalla doppia crisi finanziaria. Però oggi si è tolto una vita impiccandosi nei capannoni della sua azienda, la periferia est di Napoli, un piccolo imprenditore di 57 anni. Ha lasciato una lettera e dicendo, netta di addio, secondo i familiari, ero oppresso dalle conseguenze della crisi economica legata al coronavirus. Non sto dando nessuna colpa diretta, ci mancherebbe, non faccio sciacallaggio e invito tutti a non fare sciacallaggio. Però attenzione, perché i primi mesi dell'emergenza sono stati i primi mesi dell'emergenza, marzo e aprile. Adesso occorre oliare sto cavolo di meccanismo, perché poi magari non è il caso di questo imprenditore, non ho elementi per dirlo, però ho ben presente cosa capitò nel 2011-2012. Allora, prima che poi questo diventi notizia e notizia da commentare ogni giorno, sbloccate i prestiti alle imprese. E alle banche dico, quelle che ancora oppongono resistenza, attenzione, perché se la lungimiranza è quella dimostrata in altri anni, state attente, perché se poi saltano completamente le imprese per vizi, perché la procedura, cosa le servono questi soldi, sto ricevendo dei casi assurdi. I soldi sono garantiti dallo Stato fino a 25.000 euro, dateglieli una volta fatte le verifiche sull'antiriciclaggio, ci mancherebbe, e sulla posizione pregressa. E così come state attenti a non pensare che il paese si tenga senza le imprese, perché se saltano le imprese, i gruppi bancari lo sanno meglio di me, poi non si ritrovano un problema dei prestiti con garanzia al 90%, 10%, si ritrovano un problema dei prestiti precedenti, cioè degli incagli e delle sofferenze bancarie, degli NPL, cioè se poi un'impresa salta non ti ripaga neanche i debiti vecchi, abbastanza chiaro il meccanismo. Il che non vuol dire fare l'aggezione a pioggia, sono convinto che nella fase 3, che non è ancora pronta, bisognerà andare su alcuni settori, turismo, alberghi, ristorazione, a interventi a fondo perduto, e in altri magari agevolazioni fiscali perché hanno più capacità di riprendersi. Però attenzione, perché il tempo in questo caso è una variabile fondamentale. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Continuano ad arrivarmi messaggi di documenti chiesti per avere il finanziamento da 25.000 euro. Io vorrei che le banche avessero usato la stessa prudenza in questi 10 anni. Magari la Popolare di Vicenza di allora, Veneto Banca di allora, Marche, Etruria, Cari Parma, Rieti, chi mi manca Cassa di Risparmio di Genova, mi manca la Popolare di Bari. Io vorrei che avessero usato la stessa prudenza nel dare prestiti agli amici, gli amici che i baciati che poi hanno fatto saltare per aria le banche e risparmi. Non è che la prudenza può essere in maniera alternata, quindi so per certo che alcune banche si stanno comportando bene e si sono velocizzate. Attenzione, perché tutta questa preoccupazione nel dare 25.000 euro, quando abbiamo visto negli anni passati sofferenze che si creavano anche per prestiti agli amici, beh, dai, cerchiamo di essere seri. Nemmeno le banche sono una monade. Se viene giù l'attività produttiva del paese, vengono giù anche le banche del paese. Oggi sei populista, eccolo lì. Vabbè. Allora, per non essere populista, diamo i dati. Allora, dati positivi? Dunque, salgono a 1.600.000 le domande di adesione alle moratorie sui prestiti per 177 miliardi totali, quindi le moratorie sul... non c'entra niente con le misure del governo di liquidità e imprese, queste sono le moratorie, la sospensione del pagamento dei prestiti. Superano quota 90.000 le richieste di garanzia per nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese. Parliamo però richieste. Sono questi i risultati della rilevazione settimanale effettuata dalla Task Force, di cui fanno parte l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, la SACE, Mediocredito Centrale, il Ministero dell'Economia e Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico e Banca d'Italia. L'Associazione delle Banche Italiane segnala che continuano a crescere cospicuamente le domande di finanziamento pervenute dalle banche al Fondo Centrale di Garanzia, che ne ha fornito il resoconto. Il 5 maggio sono arrivate 92.000 domande per 5 miliardi e 600 milioni di euro di finanziamenti. Di queste, la stragrande maggioranza riguardano i 25.000 euro, 70.000 su 92.000 domande, con finanziamenti per circa 1,5 miliardi. Ora, io capisco quello che mi dice un ascoltatore, che mi dice c'è comunque il rischio di abuso, purtroppo. Lavorare coi guanti non è il massimo per leggere i messaggi. Eccola qua, della concessione. Sì, ho capito, però alcuni mi stanno scrivendo che hanno consegnato i documenti giovedì, domani va a firmare l'erogazione e sono contento. Crédit Agricole, e un altro mi scrive un iCredit, dopo 14 giorni della richiesta per i 25.000 euro hanno comunicato che adesso aspettano l'ok del fondo di garanzia. C'è anche quello, velocizzate i tempi. Non posso entrare nel dettaglio sul fondo di garanzia. Ieri, devo dire la verità, ho capito poco di quello che metto il presidente, però insomma a me non interessa. A me interessa che si mettano in piedi dei binari più veloci per l'erogazione almeno dei 25.000 euro, che so che sono un prestito, so che non risolvono tantissimo, magari però qualcuno lo aiutano a pagare fornitori o in alcuni casi stipendi, cioè circolante. È vero che è un prestito, però attenzione, per i primi 2 anni non devi restituirlo, poi lo restituisci, paghi solo gli interessi che sono relativamente bassi, 1,50-1,70%, e lo restituisci dal terzo anno in poi. Ma Ma guardi che le banche, lo dico a chi mi scrive, non è che possano non fidarsi della garanzia statale, perché questo poi è previsto dai regolamenti, permette a loro di non accantonare capitale di rischio, proprio perché come quando compri un titolo di Stato, per farci capire, non è la stessa cosa, dai. Però insomma, su, ma poi voglio dire, abbiamo tutti lo stesso obiettivo comune o c'è qualcuno che pensa di vivere ancora nel mondo pre-coronavirus? Tutto qua. Andiamo con le notizie, in breve. Vabbè, c'è un'intervista molto interessante della rivista scientifica Lancet, in cui si fa notare come questa è una pandemia che colpisce soprattutto i ricchi e meno, i paesi poveri sono meno colpiti. Dice sostanzialmente è la, per la prima volta dal secondo dopoguerra una pandemia ha sovvertito il tradizionale ordine dei paesi colpiti. Se uno volesse fare una battuta potrebbe anche dire che ha sovvertito anche dentro i singoli paesi la, il rapporto, cioè non è un mistero per nessuno che in Francia come in Italia, in Spagna le regioni più colpite sono quelle più ricche, Catalogna, Madrid, tutta l'area di Madrid, il nord-est della Francia, tutta l'Île-de-France. Le regioni che guardavano, e in Italia, Lombardia, Piemonte, che guardavano, diciamo, non dico dall'alto, mettiamo così, dall'alto verso il basso geograficamente, le regioni del sud, che si chiamasse sostanzialmente Estremadura o Andalusia o il sud della Francia o il sud dell'Italia, tra l'altro con due paesi sempre trattati appunto come gli ultimi, Portogallo e Grecia, che hanno pochissimi casi, avviene anche nei singoli paesi. I dati dagli Stati Uniti, alla città di New York la stima è impressionante, anche qui dobbiamo abituarci a leggere cose che se le avessi lette tre mesi fa, a gennaio, avrei detto forse c'è un refuso. Un lavoratore su cinque nella città di New York perderà la propria occupazione entro fine giugno. Il calcolo lo ha fatto il supervisore dei conti della città di New York, Scott Stringer. Allora, perderanno il lavoro entro fine giugno 900.000 persone a New York. Con i ristoranti e gli hotel tra le categorie più colpite. Il tasso di disoccupazione schizzerà al 12% e le entrate fiscali caleranno, creando un deficit di bilancio di 8,7 miliardi. Per quello che riguarda invece il settore privato, complessivamente ha già perso negli Stati Uniti 20 milioni di posti di lavoro in aprile. Due notizie prima di passare all'approfondimento per quello che riguarda, mica tanto due notizie, cioè. Allora, l'indice PMI degli responsabili acquisti tedeschi è crollato a un minimo storico, 17,4 punti, pensate che a marzo era 35 punti, a febbraio viaggiava ancora a 50, la differenza tra 49 e 51 è la differenza tra un'economia in espansione e un'economia in recessione, qui siamo a 17 punti, si è dimezzato da marzo. La Germania nel frattempo ha tagliato l'IVA alla gastronomia, lo dico perché si possono guardare esempi anche di altri paesi, se come continuiamo a dire alcuni settori come negli amori infelici di Tolstoi saranno più infelici di altri, saranno più penalizzati di altri, beh, è tipicamente hotel, ristorante, catering, l'oreca, tutto il settore turismo, lì bisognerà intervenire in maniera più massiccia rispetto a altri settori. Io spero che i beni durevoli, la manifattura e quant'altro si riprendano meglio. Questi settori resteranno penalizzati anche dopo, ammesso che tutto finisca, e ce lo auguriamo anche quando sarà terminata qualunque forma di lockdown. Sappiamo tutti che le previsioni dei consumi culturali, dei consumi e degli atteggiamenti saranno diverse. Sarà molto difficile poter tornare al museo, poter andare al ristorante, poter andare al bar, poter andare in spiaggia. Quindi la Germania che cosa ha deciso? L'IVA per ristoranti e caffè sarà ridotto dal 19 al 7% a partire dal 1 luglio e per un anno. Gli ordini in Germania sono precipitati a marzo, meno 15,6%, Lo spread come va? Veniamo all'Italia, 250 punti base e c'è un crollo storico anche in Italia dell'indice dei responsabili acquisti della manifattura dai 20 punti di marzo a 10,9 punti d'aprile, anche il settore dei servizi precipita da 17,4 a 9 punti, sono minimi storici. Visto che davo prima i dati di Garanzia Italia, la SACE ha chiarito, la SACE interviene per le grandi imprese, le imprese sopra i 499 dipendenti. Ha realizzato tre primi interventi, imprese entrate da due banche diverse. Al momento ci sono circa 170 potenziali operazioni di finanziamento per circa 12 miliardi e mezzo e, aggiunto la SACE, la dotazione del fondo di garanzia supererà il miliardo. Però la Confcommercio di Milano dice: attenzione, il 55% delle imprese, qui parliamo della cassa integrazione delle imprese del commercio, turismo e servizi Milano, ha fatto ricorso alla cassa integrazione. Nel 95% dei casi i dipendenti non hanno ancora ricevuto nulla. E poi c'è una ricerca, qual è la misura che chiedono di più, indennizzi e contributi a fondo perduto. L'intervento più diffuso è stato il contributo di INPS di 600 euro, indicato dal 91%. E Sangalli, presidente di Confcommercio, dice: le imprese non hanno ancora avuto gli aiuti promessi. E tant'è che Luca Zaia, il popolarissimo presidente del Veneto, dice: guardate che se non sta funzionando il tema dei prestiti alle imprese, andiamo direttamente a dare i prestiti, o potremmo anche pensare a altre formule, perché io ho visto che in Germania, ma anche in Svizzera, i prestiti sono arrivati direttamente alle imprese. Allora, io non voglio caricare l'INPS anche di questo, però scusatemi, vediamo di fare in modo che, è ovvio che il nostro meccanismo dice: tu banca anticipi, io ti metto la garanzia statale e dunque ti prego di rettificare, cari Parma, non è affatto di comprendere il novero delle banche che hai citato prima. Io rettifico quello che voglio. Uno, due, era un complimento per cari Parma, perché c'è un ascoltatore che ha detto sostanzialmente che cari Parma gli aveva già avviato la pratica, quindi ti prego di rettificare. Se vuole mi scriva una mail formale, ma era un complimento per cari Parma, se questa è la sua obiezione. Ma torniamo al metodo italiano. È chiaro che noi abbiamo scelto un metodo in cui lo Stato dava la garanzia, ma poi era la banca a erogare, perché la banca conosce di più il cliente, può fare qualche controllo in più, sa anche il suo stato precedente. Non era sbagliato l'approccio, a mio avviso, piuttosto che dare 25.000 euro magari dandoli anche a chi fa riciclo, criminalità organizzata e quant'altro. La banca ha delle pratiche, però questo non deve diventare un imbuto. Ultimo dato allegro in questa puntata piena di dati positivi, c'è la tecnica che si sta deprimendo in regia. Allora, l'indagine demoscopica: sono a rischio 40.000 imprese nel turismo e 184.000 posti di lavoro. Ripeto, non è una certa novità, il turismo sarà, a mio avviso, il settore più massacrato, assieme al turismo, intendo dire, ai consumi culturali, teatri, cinema, convegni, fiere, musei, cioè tutto ciò che prevede un atteggiamento culturale e prevede il fatto che non sono obbligato ad andare al ristorante, non sono obbligato ad andare al bar, andare al museo, andare a un convegno, e in alcune condizioni di sicurezza è probabile che non ci voglia quasi andare. Questo è il vero tema, al di là del lockdown, tant'è che oggi Intesa San Paolo ha costituito un plafond a sostegno della liquidità degli investimenti per le imprese del turismo, 2 miliardi di valore. Stefano Barrese, nostro ospite più volte, ha detto: con questi 2 miliardi puntiamo a far ripartire il paese. In tutto questo scenario abbiamo da un lato la Corte Costituzionale tedesca, che si diletta nel dire se ha fatto bene o male la BCE nel 2015, se è uscita dal suo mandato, e la Commissione Europea che certifica un crollo mai visto prima nelle previsioni economiche di primavera per l'intera area euro. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Allora, per essere corretti, mi stanno arrivando anche molte segnalazioni. UbiBanca, due ascoltatori, 25.000 euro ricevuti 9 giorni fa, allo 0,90% mi scrive di tasso un altro ascoltatore. Per cui, ripeto, non è tutto uguale, è molto a macchie di leopardo, però velocizziamolo ancora di più. Qualcuno mi scrive, guarda che si è dimenticato delle sale da ballo e delle discoteche. Non mi sono dimenticato, si figuri, non le sente le basi che mettiamo. È chiaramente fa parte dei consumi culturali, dove uno, ammesso che possano riaprire, non so bene come, le discoteche e le sale da ballo, i taxi li vedo un po' più utilizzati in questo periodo con precauzione e quant'altro. Però spostiamoci a Bruxelles per una botta di vita. La disoccupazione salirà al 9%, nell'area euro al 9,6%, recessione storica nell'area euro meno 7,7%, mai vista prima. Le banche sono più resistenti di 10 anni fa, resisteranno alla crisi, dice la Commissione Europea. In Grecia il maggior crollo, meno 9,7%, Italia meno 9,5%, Spagna meno 9,4%, quindi c'è un gruppo di 3 paesi che fa intorno al 9,5%, poi Francia meno 8,2%, Germania meno 6,5%. Italia profonda recessione, e come il deficit salirà all'11%, il debito al 159% del PIL. Tra i paesi più grandi l'Italia è stata colpita per prima e con più forza. La ripresa sarà più lenta. Gentiloni in inglese. Among the largest member states, Italy was struck first and most forcefully. The economy is expected to contract by about 9.5%, with containment measures now starting to be removed gradually. The economy is projected to start recovering from the second half of 2020. Nevertheless, Italy's recovery is forecast to take longer than in other member states. Le misure previste dall'Italia aiuteranno l'imbalzo verso 2021. La Germania andrà una recessione meno ripida degli altri stati, però, ha sottolineato Gentiloni, subirà la sua recessione più profonda dal dopoguerra. E per quello che riguarda, insomma, il settore turismo, dove Franceschini ha chiesto un'azione europea, ha ragione Franceschini, cioè poi magari succederà che ogni paese va per i casi suoi, però sarebbe giusto che, visto che i paesi più colpiti sono appunto Italia, Francia, Spagna e anche la Gran Bretagna non fa parte dell'euro, che sul turismo vi fosse un approccio europeo. Gentiloni ha detto che il settore turismo deve sopravvivere all'estate, dando per scontato che l'estate porterà poca cosa, e la Commissione Europea lavora per questo. Adriana Cerretelli in diretta con noi, buonasera mitica. Allora, tanto commentiamo Gentiloni, poi passiamo al MES e alla Karlsruhe, alla Corte Costituzionale tedesca. Insomma, devo dire, mi sarei sorpreso di trovare previsioni più rose, mettiamola così. Senz'altro, direi che anzi lo stesso Gentiloni ha ammesso che queste sono le più, tra virgolette, rose, perché ci potrebbero anche essere dei rischi a ribasso. Però ha detto una cosa, secondo me, abbastanza importante. Ha detto che questo è il quadro, ma se ci sarà il famoso fondo per la ripresa, quello al quale sta lavorando la Commissione, questo potrà essere un elemento che potrà attenuare questo quadro così disastroso. E questo, secondo me, da un uomo che è dentro la cabina di regia della nuova proposta in elaborazione alla Commissione Europea, può essere un buon segnale. In sostanza in questo momento le divergenze tra i paesi del nord ricchi e quelli più poveri in difficoltà e indebitati del sud sono veramente macroscopiche e rischiano di destabilizzare in modo permanente la coesione europea, la convergenza tra i paesi e compagnia. Quindi il fondo per la ripresa è uno strumento veramente indispensabile se i paesi del nord vogliono, come vogliono, mantenere sicuramente il mercato unico e anche l'euro. Quindi insomma, si può sperare che ci sia un segnale positivo in questo senso, dunque aiuti ai paesi più bisognosi, e tra questi ci siamo sicuramente noi, è riconosciuto non solo da Gentiloni ma ormai da tutti, insomma anche dal Fondo Monetario, da un po' da tutti gli organismi. Allora Adriana, dopo il metodo pubblicità vorrei passare invece, appunto tu già citavi gli strumenti, perché lo stesso Gentiloni ricorda che queste cifre, queste previsioni potrebbero essere migliorate dalla partenza di quella che io chiamo la quarta gamba, perché c'è la banca centrale da una parte, la BEI dall'altra, c'è il MES assieme al fondo, diciamo SURE, e la quarta gamba è appunto il Recovery Fund. Ti chiederò appunto a che punto siamo su Recovery e anche il MES, perché oggi Crimi, qui a Radio 24, il portavoce del Capo dei 5 Stelle, ha detto non è idoneo e non ne avremo bisogno. E poi parliamo anche però della Corte tedesca, o di quella tedesca della Corte, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. A 7:40 minuti sentiamo Vito Crimi, responsabile dei 5 Stelle, questa mattina ospite di Simone Spezia e Maria Latella sul MES. Io non credo che il MES sia lo strumento adatto, non credo ancora che serva, ma anche in termini quantitativi. Sapete che comunque le quantità di soldi che possono essere messi in campo dal MES sono veramente irrisorie. Oggi quello che ci serve, il primo intervento, è quello della BCE. Il primo, perché quello immediato, che consente agli stati appunto di poter accedere al quantitative easing, e altro è il debito comune, o comunque la possibilità di condivisione di debito tramite il bilancio europeo, che è il Recovery Fund, che sono in corso di realizzazione. Io credo che il MES non sia lo strumento idoneo, e in questo momento stiamo andando avanti senza accedere al MES, e non credo che ne avremo bisogno, ma sono comunque sempre e resto convinto della inutilità e della pericolosità dell'utilizzo e dell'accesso al MES. Quindi non cambia molto la posizione dei 5 Stelle. Nel frattempo molti mi stanno scrivendo, Biper Banca, Ubi Banca, che hanno ricevuto con successo i 25.000 euro. Però uno mi ha scritto su Biper, che non riesco a trovarlo, che gli hanno chiesto di sottoscrivere una polizza assicurativa e che gli costa 125 euro, Luca da Verona, non riesco più a trovarlo, e ha detto io l'ho fatto, anche se mi ha fatto notare che eccola qua, un'assicurazione sulla vita, mi hanno voluto per darmi 25.000 euro che sottoscrivessi un'assicurazione sulla vita, Arca Assicurazioni, che costa 160 euro l'anno. Non ho sollevato tante obiezioni in quanto complessivamente mi trovo molto bene con la banca, ma ho ricordato che sono comunque garantiti al 100% dallo Stato. Mi hanno risposto che se succede a me qualcosa non sono sicuro di quando lo Stato restituirà i soldi alla banca. Allora, Adriana Cerretelli, torniamo da te. Hai sentito Crimi sul MES e vorrei capire intanto come sta andando la trattativa per il Recovery Fund che citava sempre Crimi. Per ora siamo sempre a livello di commissione, non si sa esattamente quando verrà presentato la bozza, si dice tra una settimana o due, perché in effetti è un lavoro abbastanza importante, al tempo stesso abbastanza divisivo, nel senso che ci sono diverse posizioni in campo e bisognerà appunto cercare di trovare una quadra tra diciamo, chi tira da una parte e chi tira dall'altra, cioè chi desidera che il bilancio sia il più ampio possibile, che possa dare il massimo di garanzie, e chi invece fa sempre il solito gioco di ridurre la posta. Però detto questo, lo stesso Gentiloni proprio oggi ha detto di essere convinto che una volta che arriverà la proposta in giugno il Consiglio europeo dovrebbe licenziarla, e quindi questo potrebbe far entrare appunto il fondo nella fase appunto della preparazione della sua operatività effettiva verso la fine dell'anno, all'inizio del 2021. Insomma, questo è un po' il quadro in questo momento. E adesso veniamo anche poi leggo altri messaggi sul mondo bancario. Come mi interessa capire la reazione di Bruxelles in generale, insomma, il giorno dopo la Corte Costituzionale tedesca. Ieri l'abbiamo commentata con Donato Masciandaro, che era molto preoccupato, ho visto oggi molti commenti critici da Romano Prodi, nostro ospite nelle settimane scorse, a Giulio Tremonti, anch'esso ospite nelle settimane scorse, che diceva, insomma, questo è un avvertimento, è riferito al 2015, ma è un avvertimento alla BCE attuale: attenzione a come ti muovi, perché staremo lì a osservarti e a guardare se vai fuori dal tuo mandato. Per carità, una volta si diceva, se non c'era un giudice a Berlino, se questi sono i giudici a Berlino, anche meglio di no. Però Adriana, la reazione qual è stata a livello politico? Beh, la reazione è stato un grosso colpo per le istituzioni europee, nel senso che la Commissione ha ribadito che la Corte di Lussemburgo è la suprema istanza giurisdizionale dell'Unione Europea e che la primazia del diritto comunitario su quelli nazionali non è in discussione. Quindi la Corte di Giustizia Europea è più forte delle singole corti più nazionali. Più forte di tutte le singole corti europee. Costituzionali europei. Certo. Detto questo, il fatto stesso che tu sia costretto a ribadirlo ti dice a che punto siamo, nel senso certo. Che per la prima volta una Corte Costituzionale, e che Corte, perché quella tedesca, ha in sostanza detto ai giudici, adesso io lo dico un po' in modo brutale, ma sono stati degli incompetenti, nel senso che sono andati oltre i loro poteri e hanno dato dei giudizi incompleti sulla presunta non proporzionalità degli interventi che hanno fatto nel periodo tra il 2015 e il 2018. Questo lo devo spiegare, perché c'era pronunciata la Corte di Giustizia Europea prima della Corte Costituzionale tedesca, dicendo che quello che aveva fatto Draghi nel 2015 rientrava nei compiti della BCE. Ora, se la Corte Costituzionale tedesca dice no, non è che sta solo criticando Draghi, criticando anche la Corte di Giustizia Europea. Ti ho interrotto per chiarire questo passaggio. Sì, e nel senso che, voglio dire, questo cosa vuol dire? Che la credibilità e l'autorità e la sovranità della Corte di Lussemburgo vengono rimesse in discussione. Ora, io vorrei solo ricordare che uno dei temi principali dell'uscita della Gran Bretagna dall'Europa è stato proprio, durante la campagna elettorale sulla Brexit, il problema della sovranità della Corte di Giustizia Europea, che loro dicevano non può essere una sovranità superiore a quella del nostro Parlamento, e questa è stata una delle ragioni per cui sono usciti. Ora, che la Germania assuma attraverso la sua Corte Costituzionale una posizione simile è, secondo me, di una gravità impensabile. No, ma ti fa capire, scusami se sono un po' brutale, ti fa capire che i tedeschi, al di là di tutto questo rigore e coerenza, sono di Bosco o di Riviera, a seconda di come gli conviene, e poi ognuno capisce quello che vuole capire da questa espressione, perché quando c'è da applicare le sanzioni a loro, ricordava giustamente il ministro Tremonti che l'Italia disse no, sospendiamo le sanzioni quando loro sforarono Maastricht. Quando c'è da pagare i debiti della Seconda Guerra Mondiale, va bene se li sospendono. Quando invece c'è da far pagare la Grecia o fare a faccia feroce con gli altri paesi adesso, o di criticare la Corte di Giustizia Europea perché conviene a loro, diventano di Riviera o di Bosco, secondo come uno preferisca. Ti ho interrotto anche qua e ti lascio concludere. No, e poi soprattutto quello che dunque da una parte viene rimessa in discussione la sovranità giurisdizionale della Corte di Giustizia, che è preeminente in tutta Europa su tutte le legislazioni e su tutti i tribunali nazionali dei singoli paesi. E l'altra cosa che viene messa in discussione, non in modo diretto ma indiretto, è l'indipendenza della BCE. E anche certo. Qui c'è un grande paradosso, perché la BCE è stata voluta assolutamente indipendente dai governi proprio dalla Germania. Questa era una sua priorità nel negoziato di Maastricht, proprio perché non voleva sottrarla alle influenze dei governi, alle influenze politiche. E ora la Corte di Karlsruhe invece dice che bisogna che governi e parlamenti tedeschi debbano in qualche modo controllare che l'operato della BCE sia conforme alla lettera e allo spirito dei trattati. Quindi anche questo è un vulnus, diciamo, nella costruzione europea, ed è qualcosa che crea naturalmente confusione. La mia impressione, detto questo, io trovo che la sentenza sia stata molto grave per l'Europa e la sua tenuta, ma la mia impressione è che però oggi si giochi come dire, neutralizzare l'impatto della sentenza di Karlsruhe e che si tenterà in qualche modo, da una parte la BCE immagino che abbia tutti gli argomenti per difendere la propria posizione, e quindi in questo modo aiuta a fare dimenticare, se vogliamo, l'incidente. Quindi alla fine discussione è la politica del whatever it takes, perché pone dei limiti agli interventi. Dunque questo è ancora più grave in un momento così difficile come quello della pandemia, la divisione intraeuropea. Sì, però io ci vedo sia un elemento operativo, ecco. Come dici tu, perché pur riferita al 2015 è un messaggio neanche tanto velato a quello che sta facendo adesso la Lagarde, perché è ovvio che dice se vogliamo chiarimenti sul 2015 te li potremo chiedere in futuro anche per adesso. Però tu hai fatto notare una cosa importante al di là della ricaduta concreta, quindi sulla Banca Centrale Europea, è una visione ancora più ampia la tua su un atteggiamento tedesco, quantomeno, che va a rimettere, anche contraddicendo se stessa, contraddicendo l'approccio sempre tenuto alla Germania, la capacità di avere un'Europa più forte dei singoli paesi. E allora auguri su questo. Comunque, grazie a Adriana Ceretelli, come sempre chiara ed esaustiva. Traffico. Focus Economia. Lei sta sospirando un po' tanto, Berigione, oggi. No, sospiro per un motivo, perché al di là dell'emergenza sanitaria, qui bisogna combattere con la burocrazia italiana, che non è un mistero ma non riusciamo a liberarci, con la resistenza di alcune banche, e poi alzi lo sguardo fuori e ti accorgi che i tedeschi saranno mica tedeschi per niente, e c'è una sentenza che mette dei bastoni nelle ruote allo stesso governo tedesco in parte, e comunque anche alla von der Leyen oltre che la BCE, e che ci sono mille distinguo. Poi c'è quel genio di Rutte, omen omen, che è andato a dire niente soldi di Spagna e Italia. Cioè, comunque ti giri, non si riesce a trovare una direzione, come se tutte le cifre che oggi stessa la Commissione Europea ha dato, non io, Gentiloni, di un crollo mai visto del PIL tedesco, del PIL francese, del PIL italiano, del PIL spagnolo, non bastasse a qualcuno, a qualche euro, a qualche burocrate italiano e qualche euro burocrate e qualche burocrate tedesco, con atteggiamenti di Deutschland über alles, così vediamo se la capiscono e capiscono a cosa mi riferisco, che adesso la tua Corte di Giustizia deve andare in contrasto con la Corte di Giustizia Europea, allora chiedi anche tu di uscire dall'euro come ha fatto la Gran Bretagna, vediamo cosa esporti col marco. Vabbè, chiudiamo questa parte prima di adesso venire al resto. C'è un ascoltatore, alcuni mi stanno scrivendo, guardi che i prestiti li ho avuti, altri mi dicono non ho ancora risposta. Mi ha scritto un piccolo artigiano con due dipendenti, ha detto: nonostante non abbia votato e non mi piace l'attuale governo, devo fare un applauso ai provvedimenti eccezionali presi, ho due dipendenti, 600 euro sono arrivati dopo 10 giorni dalla domanda, il finanziamento è stato erogato in 48 ore, la cassa integrazione è pagata ieri, relativa al mese di marzo, forse sarò una mosca bianca, ma parliamo anche delle cose positive. Ma guardi che io ho detto più volte che gli strumenti che il governo ha messo, con tutti i limiti, vanno nella giusta direzione. Non ho mai visto lo Stato italiano dare 600 euro in tasca, né mette la cassa integrazione in deroga e quindi fino a un dipendente, né dare queste linee di credito. Poi il problema è che lei li ha ricevuti, quello che noi stiamo lamentando non è il provvedimento in sé, non si può spaccare il capello in due, è che almeno ti arrivino. E sulla cassa integrazione le regioni devono svegliarsi, l'INPS è sommersa per carità, ma anche le regioni devono svegliarsi. Restiamo sui temi positivi, oggi c'è una scaletta. Restiamo sui temi positivi, oggi si è tenuto un incontro tra il governo e le varie associazioni datoriali, in primis il settore agricolo, Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri, Fede Distribuzione. Allora, il tema caldo qui cos'è? Mancano i lavoratori nei campi, per vari motivi, perché alcuni sono orientati nei paesi d'origine. Sappiamo che quello purtroppo in alcune aree del paese era un settore in cui veniva occupata anche manodopera in maniera illegale, in nero, e quindi anche immigrati illegali. La Bellanova, la ministra della politica agricola, ha detto di regolarizzare quella che stima essere 600.000 invisibili. Sulla stessa posizione il ministro per il sud, che dice dovrebbe riguardare anche colf e badanti, nonché i lavoratori italiani in nero. La ministra del lavoro Catalfo invece vuole paletti che restringono la platea dei possibili beneficiari. La ministra dell'interno Lamorgese guarda con favore un'ipotesi di regolarizzazione che non coinvolga solo i braccianti agricoli, che non sia limitata agli stranieri, però i numeri che ha in mente sono molto più bassi di quelli della Bellanova. Critico su questo invece il responsabile dei 5 Stelle, che abbiamo già sentito prima sul MES, Vito Crimi. Prima di ascoltarlo ringrazio per averci raggiunto in collegamento il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, buonasera. Buonasera a tutti voi e agli ascoltatori. Sentiamo Crimi facciamo così, sentiamo prima il ministro Provenzano, detto troveremo una soluzione, ma sappiamo che è favorevole il ministro per il sud, e poi invece Crimi che dice no a una sanatoria modello Maroni. Sulle regolarizzazioni non è il momento di piantare bandierine né dentro né fuori il governo, non si tratta solo di un atto di giustizia, ma risponde a un'esigenza economica e dobbiamo trovare una soluzione con urgenza per un settore cruciale come quello dell'agricoltura. Alla destra che sta conducendo una campagna contro, anche vergognosa, vorrei dire che l'alternativa alla regolarizzazione è l'illegalità e come istituzioni, ma prima ancora come cittadini, non possiamo dimenticarci di chi in queste settimane ha consentito che il cibo arrivasse sulle nostre tavole o di chi si è preso cura dei nostri anziani nelle case. Guardi, quello che serve a fare emersione di lavoro nero o lotta al caporalato per noi è sempre stato, sono sempre stati i nostri cavalli di battaglia e continueremo a fare tutto ciò che è utile in quella direzione, che siano italiani o stranieri, ma se come ho potuto leggere c'è anche una parte di testo di intenzioni di fare una regolarizzazione, una sanatoria modello Maroni, perché vorrei ricordarlo, modello Maroni, Bossi-Fini e altri, e noi non ci stiamo, che le ipotesi in campo che prevedono la concessione di permessi di soggiorno temporanei agli immigrati che erano qui e che oggi sono irregolari, secondo me non aiuta all'emersione del lavoro nero, tutt'altro, perché se noi concediamo uno status di regolarizzazione a chi è in Italia illegalmente, oggi consentiamo a queste persone di continuare a svolgere lavoro nero e di essere oggetto di sfruttamento. Massima disponibilità all'emersione del lavoro nero, ma non accetto che vengano dati dei permessi di soggiorno temporaneo. E vi dico che con questa situazione che abbiamo, una delle norme che abbiamo proposto e dovrebbe entrare nel decreto aprile, so che è stato il decreto maggio ormai, so che è già stata maturata, è quella di consentire anche chi percepisce sostegni, misure di sostegno al reddito, come il reddito di cittadinanza, NASPI e altre forme, di andare a svolgere questi lavori senza perdere il diritto a quel reddito, perché anche questo è un tema importante oggi. Allora Giansanti, dopo il GR24 l'ascolterò in maniera più chiaramente estesa, mi dica solo una battuta, lei a favore o meglio utilizzare per esempio il reddito, i ragazzi a casa con il reddito di cittadinanza? Ma Io parto da un presupposto: noi abbiamo bisogno di avere manodopera in agricoltura per evitare di dover buttare le nostre produzioni. Non sta a me fare il governo, prendessero una decisione ma ci dessero una risposta, perché nel frattempo che si rimpallano sulle loro proposte, gli imprenditori si trovano senza manodopera. Poi me l'articolo, come glielo prometto meglio, dopo il GR24, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, avremo anche l'aggiornamento, come sempre, 18 dal comunicato stampa della Protezione Civile sui nuovi dati. GR. Il segnale orario vi è offerto da Zazà, la scamorzina di Brazzale, tutta da mordicchiale. Focus Economia. E 7 minuti, do l'aggiornamento sui dati diffusi oggi. Allora, il dato positivo è che c'è un record di guariti, 8.014 più 9% rispetto al dato di ieri, e ieri l'aumento dei guariti era stato del 2,8, dell'1,5 il giorno prima, del 2,2, quindi è un dato molto forte sull'aumento dei guariti. Tant'è che ieri erano stati 2.300 i guariti, l'altro ieri 1.200, tutta la settimana scorsa si oscillava tra i 2.000 e i 2.500. Oggi sono 8.000 i guariti, ed è il record da quando è iniziata sta maledetta epidemia. Poi, per quello che riguarda i contagiati, sono 1.445 più di ieri. E questo è un dato più alto rispetto a ieri, che erano stati 1.000 o 1.200 i giorni prima, e quindi se i guariti fanno più 9,5%, i contagiati fanno più 0,7%. Terapia intensiva, il dato è buono, meno 6,6%, sono 94 persone in meno in terapia intensiva. I ricoveri totali non li ho ancora. Però i positivi hanno fatto meno 6.939, quindi meno 7%, e ieri avevano fatto meno 1.500, giorno prima meno 199, quindi è particolarmente forte il dato sui positivi, e questi sono forti in senso positivo, scusatemi il gioco di parole. Il dato non buono riguarda i deceduti, perché siamo tornati, ahimè, sopra i 300, e anche non di poco. Lo dico perché nei giorni scorsi ci eravamo abituati ad avere dei decessi, per quanto inaccettabili, alti, tra i 200 e i 195 di lunedì, 174 di domenica, e adesso siamo tornati a 369, che porta il numero totale di vittime a 29.684, quindi è un passo dalle 30.000. Allora, torniamo invece a parlare del mondo dell'agricoltura. Ecco, ho anche il dato sui ricoveri, sono 598 in meno, quindi meno 3,6%. Ieri avevano fatto meno 3,3, il giorno prima meno 2,4, meno 0,8. Comunque si conferma un calo importante nei ricoverati. Che noi guardiamo sempre i ricoverati e i decessi, perché lì il tampone purtroppo, per fortuna, c'entra poco, e i ricoverati calano di 600 ieri, erano di 600 ieri, di 600 uguale lunedì, di 400, e il dato è buono anche sui ricoveri e sul calo dei ricoveri in terapia intensiva. Non è buono sui decessi, è molto positivo invece sui guariti e anche sui neopositivi in continuo calo. Presidente di Confagricoltura Gian Santi, lei diceva: a noi non interessa quello che sarà l'accordo poi di governo, dobbiamo avviare la produzione. Però, insomma, la convince l'idea che in questo modo si possano andare a regolarizzare anche situazioni di nero, che voi, lo dico voi, e le altre associazioni avete sempre combattuto, per inciso? Ma noi il caporalato lo abbiamo sempre combattuto. Dispiace sentire una raffigurazione, non mi ricordo quale ministro l'ha detto, in cui si dice quasi che l'agricoltura dia lavoro solamente in maniera irregolare. Non è così. Una sparuta minoranza di agricoltori che operano al di fuori della legge. Vorrei ricordare che il settore dell'agricoltura opera all'interno della legge, con i contratti che ovviamente andiamo a stipulare tra le associazioni di categoria e i sindacati dei lavoratori. Noi stiamo vivendo un momento difficile da alcuni mesi, lo abbiamo detto già agli inizi di marzo che stavamo iniziando ad affrontare il periodo primaverile, che è un periodo per noi intenso in cui raggiungiamo il picco massimo di assunzione durante l'anno. Noi andiamo a raccogliere tutto ciò che abbiamo programmato in autunno e iniziamo a seminare tutto ciò che poi raccoglieremo in estate. E durante questo periodo poi si fanno le operazioni importanti sulle piante arboree, quindi si fanno tante operazioni sui vigneti per poi arrivare alla vendemmia tra qualche mese. Rispetto a questa carenza di manodopera, noi abbiamo fatto una serie di proposte. Primo, ovviamente poter utilizzare i corridoi verdi. L'agricoltura non è quella di Adamo ed Eva con la mela appesa all'albero da raccogliere. Oggi l'agricoltura è un settore economico importante in cui anche i nostri operai hanno delle professionalità, hanno fatto dei corsi e quindi inizialmente noi abbiamo chiesto la possibilità di poter utilizzare chi da anni collabora con noi, che per una serie di motivi sono bloccati nei loro paesi di origine. Noi abbiamo parlato con le ambasciate del Marocco, della Romania, dell'India, proprio per cercare di poter far rientrare quegli operai che anno in anno vengono a lavorare nelle nostre aziende. In Germania e in Inghilterra in parte sono riusciti, noi in Italia ancora non siamo riusciti, mi auguro che la diplomazia italiana possa, al pari di quella inglese e quella tedesca, poter ottenere gli stessi risultati. È evidente che se non ci si dovesse riuscire, l'unica alternativa è cercare in Italia. Cercare in Italia oggi che significa? Noi come Confagricoltura siamo presi anche una responsabilità forte. Io in un'intervista dissi in maniera molto chiara che in Italia c'è oggi un numero importante di lavoratori che percepiscono sussidi e che potrebbero venire a lavorare in agricoltura. Cioè su il reddito di cittadinanza, diciamo. In particolar modo il reddito di cittadinanza, oppure chi magari rispetto ai settori industriali era fermo, perché va detto anche che soprattutto nelle aree del nord molti operai hanno delle origini agricole, vengono da famiglia di agricoltori, quindi sono persone che magari non lavorano in agricoltura ma la sera tornano a vivere magari all'interno di un'azienda, di una famiglia di agricoltori, e quindi la possibilità di utilizzare tutte persone che in questo momento percepiscono dei sussidi. Mi sembra di leggere dalle parole di Crimi piuttosto che della ministra Catalfo che si sta andando in quella direzione, bene. Dall'altra ovviamente c'è questa proposta della ministra Bellanova che certamente aiuta a far chiarezza, perché è evidente che se qualcuno oggi opera al di fuori delle leggi noi non possiamo accettarlo, perché significa che c'è qualcuno che all'interno del mio settore fa concorrenza sleale, perché quando io ovviamente do lavoro ad una persona con un contratto ho un costo generale orario completamente diverso rispetto a chi ovviamente fa ricorso al caporalato, e questo va deballato e combattuto. Poi se si pensa che 600.000 persone possano venire a lavorare in agricoltura, credo che questo, ma a partire immagino dalla ministra Bellanova, sia chiaro che non è così. Noi ovviamente stiamo cercando personale qualificato, dovremo vedere se qualora il governo decidesse di andare in quella direzione quanti di questi 600.000 persone potranno venire a lavorare in campagna. A questo aggiungo che c'è un ulteriore problema, che a queste persone in tutti questi anni è stato dato la possibilità di vivere in questi borghi che sono cresciuti sotto gli occhi dell'indifferenza generale e che oggi danno delle condizioni di vita inumane. Allora, rispetto a questo e rispetto a chi ovviamente troverà lavoro, ci sarà anche la necessità da parte dello Stato anche di dare un luogo dove vivere, perché non è che poi noi le possiamo far dormire in campo queste persone, quindi dovrà essere messo in campo tutta un'azione organizzata volta a far emergere il lavoro, quindi dare a tutte queste persone un permesso di cittadinanza in Italia, dare a loro la possibilità di avere un codice fiscale per poter poi noi pagare la loro retribuzione su un conto corrente bancario, e soprattutto dar loro la possibilità da parte dello Stato di avere un luogo dove dormire e potersi ritirare dopo le orarie di lavoro. Sì, vedo che la Bellanova, sì, 600.000 anche a me sembra un numero eccessivo, vedo che la Bellanova ha un problema soprattutto di carattere politico. Lei è di Italia Viva, quindi renziana, ha detto pochi istanti fa: se l'opposizione è strumentale, non sto facendo una battaglia strumentale, sto facendo una battaglia di civiltà, però se prevale una opposizione strumentale la mia permanenza in questo ministero sarebbe del tutto inutile. Questo è un problema, diciamo, interno alla maggioranza. Le chiedo un'ultima cosa invece, Gian Santi. Abbiamo notato, ma non noi, l'Istat, tensioni sui prezzi dell'ortofrutta. Soprattutto il dato era impressionante sull'inflazione ad aprile, mai è stato così forte il distacco tra inflazione generale e inflazione del carrello della spesa, quindi generi di a più largo acquisto, dovuto soprattutto all'ortofrutta. Da quello che voi vedete, la tensione è dovuta al fatto che riuscite a raccogliere, la dico male ma per farmi capire, a raccogliere meno e quindi c'è meno offerta e crescono i prezzi, o c'è qualcuno che fa il furbo nella lunga catena che avete, quindi grossisti e poi distributori finali. Ma guardi, io faccio una considerazione. Due mesi fa il Presidente del Consiglio ha chiesto ai produttori agricoli di dare il loro aiuto e noi l'abbiamo fatto. Con orgoglio, con responsabilità, abbiamo continuato a produrre, ci siamo fatti carico di mettere in sicurezza i nostri lavoratori, abbiamo lavorato in un contesto generale difficile, ma produrre non significa esclusivamente generare reddito. Noi abbiamo prodotto e abbiamo venduto le nostre produzioni. Non abbiamo minimamente aumentato il valore dei nostri prodotti, anzi in alcuni casi ci è stato chiesto addirittura di rivedere i prezzi che venivano espressi dal mercato. Ci sono settori che stanno soffrendo molto in questo momento, il vino, il settore dei suini, il settore del latte, e noi stiamo vendendo addirittura ad un prezzo inferiore. Me la faccio anch'io questa domanda di come sia possibile tutto ciò. Certamente ci sono dei costi della logistica che sono aumentati, ci sono dei costi legati, immagino, agli strumenti di protezione individuali che prima non venivano caricati probabilmente sul costo del prodotto finito, ma le assicuro che noi da parte agricola aumenti non ne abbiamo fatti, anzi forse in alcuni casi abbiamo subito anche delle diminuzioni di prezzo. A questo si aggiunge anche il fatto che poi è qualcosa che mi lascia perplesso, io capisco che lo Stato voglia aiutarci e ringraziamo di tutto quello che fa, ma a volte nel fare delle cose si fanno anche degli errori. C'è un articolo nel Cura Italia in cui sostanzialmente viene catalogato come infortunio sul lavoro il essere positivi al coronavirus. Allora io non riesco a capire che cosa c'entri tutto ciò con questo. Questo sta facendo infuriare molti imprenditori, non solo quelli agricoli, perché la categoria di infortunio sul lavoro, allora, dovresti dimostrare sostanzialmente che l'hai generato tu questo contagio. È un problema, nel senso, attenzione, perché l'infortunio sul lavoro poi ha tutta una sua tematica anche di carattere giuridico. Sono d'accordo con lei e mi sa che chi la arriverà dopo di lei fra pochi minuti, il presidente dell'ANCE, perché passiamo dal mondo dell'agricoltura al mondo dell'edilizia, temo dirà le stesse cose, perché sono molto preoccupate anche i gruppi delle costruzioni e le aziende dell'edilizia da questo infortunio sul lavoro, perché poi le responsabilità in quel caso, io non dico che le imprese non debbano avere responsabilità, dico semplicemente che su una materia come questa, se scopri che uno è positivo al coronavirus, è un pochino delicato, per essere eufemistici, attribuire la responsabilità alle misure di sicurezza in azienda o non scoprire se lui aveva un positivo in casa, ha incontrato dei positivi, anche perché finché non facciamo sti tamponi diventa tutto molto molto complicato, che tu dovresti dimostrare che lui è entrato in fabbrica o nel campo agricolo o nel mondo nella società dell'edilizia negativo e ne è uscito poi positivo. Cioè, attenzione a ingarbugliare le cose. Grazie comunque anche al presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti. Prima di andare sul traffico e poi passare alle costruzioni, due dati, anzi tre. Uno positivo, visto che di positivo oggi il numero dei decessi non era. Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza coronavirus, il numero dei dimessi e dei guariti supera quello degli attuali malati, di chi è ancora, diciamo, ricoverato. Sono 93.245 le persone dimesse e guarite, sono 91.500 quelle attualmente positive. Questo grazie al record di pazienti guariti nelle ultime 24 ore, oltre 8.000. Questo è importante perché al di là della cifra è il rapporto che è importante. Non si era mai verificato che ci fosse un numero di guariti superiore al numero di attualmente positivi. La cosa non bella è che, guardate, c'è una correlazione molto forte tra i decessi e i positivi della Lombardia. Ora, abbiamo beccato, purtroppo, oggi, sono tornati a crescere i decessi, come dicevo, sono saliti sopra i 300 per la prima volta da un bel po' di giorni, anzi, vado anche a guardarne da quant'è che i decessi non arrivavano a quella cifra. Da praticamente sabato erano 470, sì, dalla settimana scorsa, metà della settimana scorsa. E il contributo negativo, drammatico, è della regione Lombardia, perché su 369 decessi in questo paese, 222 sono dovuti alla regione Lombardia, dove il totale dei decessi è arrivato a 14.600. Quindi vuol dire che, visto che i decessi complessivi sono circa 29.600, la regione Lombardia fa da sola il 50% dei decessi. e non è il 50% della popolazione né del PIL di questo paese, va bene? Siamo al 13-14%. Questo lo dico perché non ho nessuna intenzione di fare polemica politica, ci mancherebbe, ma continuare a dire noi abbiamo solo avuto più sfiga di altri non ha nessun senso con queste percentuali. Traffico. Focus Economia. Qualcuno mi dice una commissione d'inchiesta, beh adesso, non adesso, non è il momento, però un paese serio, finita questa emergenza, una commissione d'inchiesta la va a fare per capire che cosa non ha funzionato in maniera così palese nella regione Lombardia, che cosa ha funzionato in maniera così perfetta nella regione Veneto, a dimostrazione che non c'è nessun colore politico in questo mio giudizio, e in altre regioni. Non è pensabile che una regione becchi il 50% dei casi, dei contagi e dei morti e si limiti a dire abbiamo avuto più sfortuna, sono esplosi i focolai, e non può essere solo quello. Gabriele Buia, presidente dell'ANCE, Associazione Nazionale dei Costruttori dell'Edilizia, buonasera. Buonasera a lei. Allora, cosa ha fatto il governo per voi? Che cosa ha annunciato soprattutto per quello che nel DL di maggio dovrebbe arrivare l'eco bonus per le spese dal 1 luglio a fine 2021, un super bonus al 110% per i lavori avviati dal 1 luglio di quest'anno fino alla fine del 2021, dall'isolamento termico alla sostituzione di impianti di riscaldamento e quindi per una casa più ecologica, interventi che vanno a migliorare la classe antisismica e quant'altro. Poi c'è un super bonus dell'edilizia annunciato dal ministro Fraccaro al 110% per questi, appunto, per questi interventi, e Italia Viva ha chiesto di spostare la scadenza al dicembre del 2022. Voi però vi siete sostanzialmente opposti, voi e Confindustria, alla proposta che era arrivata dal ministro del lavoro, la 5 Stelle Nunzia Catalfo, lavorare meno, lavorare tutti, cioè ridurre l'ora di lavoro e convertire quota parte delle ore in percorsi di formazione ma senza toccare lo stipendio. Perché? Dunque, parto da ecobonus, sisma bonus, chiaramente. Oggi i ministri presenti ci hanno illustrato questa misura, che era la misura relativa al decreto aprile, ma poi è slittata, è arrivata ad essere al decreto di maggio, per cui c'è stato un certo slittamento. Le misure all'interno, per quello che ci hanno detto, ci sono delle misure importanti, oltre al sostegno alle imprese, alla liquidità delle imprese, anche l'occupazione, hanno rifinanziato la cassa integrazione e altre misure, ci hanno detto, ci sono dei fondi a disposizione anche per i comuni e regioni, e oltre a questo c'era anche questo annuncio di questa misura che è relativa all'ecobonus e sisma bonus. E visto la vetustà del patrimonio immobiliare italiano, visto gli effetti che ha avuto ultimamente, perché sta prendendo sempre più piede, queste misure devo dire che sono misure importanti, perché un contributo fino al 110% capisce bene che è un contributo, è un aiuto alle famiglie proprietarie di immobili in generale, che possono mettere in sicurezza statica, ma non solo, efficientare anche energeticamente i loro immobili, e questo devo dire che è una misura di forte interesse per il settore in generale, che va nell'ottica anche della sostenibilità di settore, che abbiamo più volte sottolineato, perché se si vuole veramente ridurre le emissioni, efficientare, mettere in sicurezza, ebbene allora abbiamo bisogno di incentivi come questo, e penso che questa sia una misura importante per anche rilanciare l'economia del mondo delle costruzioni, non tutto, perché per sistemare il sistema del mondo delle costruzioni io ho chiesto al presidente Conte di avere un'attenzione particolare, per una volta per tutte dovremmo mettere a sistema un settore che è il 22% del PIL, tanto per dirlo, per cui questo è importante. Abbiamo bisogno di tanto altro, ma aspettiamo e pensiamo di aver ristoro, almeno questa è l'occasione buona, no? Nell'ambito di questi sì, Buia mi dice, perché ho due minuti scarsi, invece sull'orario di lavoro, la riduzione a parità di salario, cos'è che non la convince? Ah beh, assolutamente no, perché guardi, già adesso noi dobbiamo rilanciare la produttività. Tutte quelle misure che stiamo giustamente mettendo in atto per porre rimedio ai problemi del contagio, abbiamo avuto l'ok già da lunedì, ma noi ancora oggi non stiamo producendo perché stiamo perfezionando l'operatività dei cantieri. E la differenza tra l'industria e i cantieri è che noi abbiamo tanti cantieri, l'industria c'è una sede operativa per lo più, per cui noi dobbiamo amplificare in ogni cantiere questo. Sentirci dire che dobbiamo a parità di stipendio andare a 6 ore, in questo momento particolare dove non c'è redditività, dove abbiamo degli oneri altissimi sulla mancata e la sottoproduzione di cui chiederemo ristoro, dire che dobbiamo spendere di più, lavorare meno, ci sembrava un'incongruenza, ma non è stato soltanto dalla mia parte, ma da tutte le parti presenti economiche, tutte presenti oggi alla riunione. Associazioni datoriali. Ecco. Perfetto, grazie, la riavremo come sempre. Il mondo delle costruzioni è uno dei mondi, insomma, che seguiamo con interesse. Grazie a Gabriele Buia, presidente dell'ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori dell'Edilizia. Allora, è quasi tutto. Devo dare una risposta brevissima a chi mi sta scrivendo: sciacallo, sei immorale, sull'inchiesta. Faremo un'inchiesta anche a New York, Madrid, Barcellona, Londra. Guardate, ogni paese, e forse non leggete alcuni giornali, io dico che mi sta insultando sulla Lombardia, ci sono fior fior di inchieste, di accuse per la gestione, per esempio, delle case di riposo a Madrid, per la gestione nell'Île-de-France. Quindi ogni paese si faccia la sua inchiesta. Sono d'accordissimo, a New York vedremo. E noi la faremo su quello che è successo in Regione Lombardia, se un paese è serio, perché come in Francia, a Parigi, come in Spagna sulle case di riposo, anche nella gestione delle case di riposo. Sono d'accordissimo con chi, pur dandomi dello sciacallo immorale, chiede le inchieste anche nelle altre capitali. Benissimo, e poi andremo a vedere come sono state gestite in Italia. Io mi occupo dell'Italia in questo caso, no? Rispetto a altri paesi. Dopodiché ci sentiamo domani dalle 17 in poi.